Europa 24. Buongiorno da Marta Cagnola per questa nuova edizione di Europa 24. Il Consiglio supporta gli obiettivi indicati dalla presidenza italiana di sostenere la crescita e l'occupazione in uno sforzo comune di riforma e ancora concorda nel far miglior uso della flessibilità che è già inclusa nel patto di stabilità e crescita. Nel documento finale dell'Ecofin di Bruxelles si trova il sostegno dei ministri dell'economia dell'Unione agli obiettivi portati dal ministro Piercarlo Padoan su crescita e riforme. Il dibattito però è solo all'inizio. È una trattativa lunga e complessa, quella che i paesi europei hanno iniziato ieri sull'applicazione più flessibile del patto di stabilità e di crescita. I governi vogliono fare del trattato e delle regole di bilancio un uso migliore, ma i paesi hanno interpretazioni diverse su ciò che questo significhi. Per alcuni paesi si tratta di formalizzare misure già decise in passato, vale dire la concessione di più tempo per ridurre il deficit. Per altri bisogna andare oltre e trovare altre forme di flessibilità. Il dibattito è solo all'inizio e verrà per molti versi gestito dalla presidenza italiana dell'Unione nei prossimi mesi. Nel frattempo è già previsto che entro fine anno ci sia una revisione delle recenti riforme del patto di stabilità. Anche questa sarà l'occasione per una discussione sul futuro delle regole di bilancio europee. Nella Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è rimasto stabile all'11,6% a maggio, lo rende noto l'OCSE. Nell'insieme dell'area dell'organizzazione il dato è stabile al 7,4%. L'Europa non ha mai abbandonato l'Italia, lo dice la commissaria europea Cecilia Malmström da Milano, dove partecipa al vertice informale dei ministri dell'interno europei. L'intervista di Sergio Nava. Frontex is a small agency in the European Union. Frontex cannot today just take over Mare Nostrum. We don't have those means. Frontex è una piccola agenzia nell'Unione Europea. Non abbiamo i mezzi per rilevare l'operazione Mare Nostrum. Frontex con il suo budget potrebbe finanziare solo 2 settimane di Mare Nostrum. Ciò che Frontex può invece fare è lavorare col governo italiano per identificare esattamente i bisogni e progettare un'operazione più europea con il contributo degli Stati membri. Avremo per questo bisogno di maggiori risorse da parte degli Stati membri e sarà il governo italiano a dover quantificare quanti soldi occorrono per rafforzare Frontex. La Commissione europea non è contraria all'aumento del budget di Frontex per il 2015, ma ci vuole la volontà politica. Gli altri Stati membri devono contribuire di più rispetto ai 90 milioni raccolti nel 2014. Lo ha dichiarato Laura Corrado, vicecapo della Direzione Migrazione e Asilo della Commissione europea, al convegno sull'immigrazione e le frontiere dell'Europa oggi a Milano. Non è possibile sostituire Mare Nostrum con Frontex dall'oggi al domani, ha confermato Corrado, ma c'è la volontà di aiutare l'Italia. I partenariati di ricerca tra l'Unione Europea, il settore privato e gli Stati membri hanno presentato oggi i primi inviti a presentare progetti e partner nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'Unione da 80 miliardi di euro. La prima tornata di finanziamenti sarà destinata a progetti intesi a migliorare la qualità di vita dei cittadini e a rafforzare la competitività internazionale dell'industria europea. Tra i progetti figurano nuove cure per diabete e patologie oculistiche, nonché l'introduzione di decine di veicoli stradali alimentati a idrogeno e di stazioni di rifornimento. La Commissione europea ha aperto un'indagine per esaminare se l'iniezione di capitale di 25 milioni di euro da parte della SEA SPA, l'operatore pubblico che gestisce gli aeroporti di Milano, alla controllata Airport Handling, sia in linea con le norme sugli aiuti di Stato. La Commissione esaminerà se questa iniezione di capitale aggira la sua decisione del 2012 che richiedeva di rimborsare gli aiuti di Stato illegali che SEA SPA aveva dato alla sua SEA Handling. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora una buona giornata da Marta Cagnola. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.